La Procura di Genova ha ufficialmente dichiarato che sono stati aperti due fascicoli di indagine. Uno riguarda le violenze, i lanci di oggetti commessi dai manifestanti, dagli antagonisti. Due di loro sono stati processati questa mattina per direttissima, il processo è stato poi rinviato a luglio e i due hanno l'obbligo di firma. Quindi un'indagine, diciamo, quelli che si definiscono facinorosi, che dovranno essere identificati e saranno poi denunciati attraverso le immagini, video girati dalla polizia. Il secondo filone di indagine ci riguarda direttamente, riguarda noi come giornalisti, perché parte riguarda gli abusi della polizia, in particolare le violenze totalmente gratuite documentate ai danni del nostro collega di Repubblica Stefano Rigone. E apro una parentesi, questa mattina, anzi poco fa, Stefano è stato operato alle due dita fratturate dalle manganellate, l'operazione è andata bene, ora è sempre ricoverato in ospedale, ricordo che ha anche due costole rotte, un trauma cranico e i segni ancora evidenti degli anfibi sul corpo e delle manganellate. Ciò detto, come dicevo, la procura ha aperto un fascicolo per identificare i poliziotti che lo hanno pestato. L'inchiesta viene svolta dalla stessa squadra mobile e sono appunto in corso gli accertamenti. E entrambi i fascicoli al momento sono a carico di ignoti, nel senso che in entrambi i casi in qualche modo si dovrà procedere all'identificazione attraverso i video, gli stessi video girati dalla polizia. Sì, dunque, al momento sono a carico di ignoti, naturalmente oltre ai video girati dalla Digos c'è anche tutto il materiale che naturalmente è reperibile in rete, materiale girato dai numerosi giornalisti presenti ieri, alcuni dei video che noi abbiamo pubblicato erano stati girati dal nostro stesso Stefano Rigone che era presente in strada. Va detto che insomma le attese sono naturalmente tutto per vedere se la polizia fornirà, riuscirà a identificare i poliziotti autori del pestaggio, poliziotti che indossavano tutti delle divise, i caschi, quindi difficilmente riconoscibili. Ricordiamo che in Italia nessuno ha mai voluto decidere di far entrare in vigore la norma per rendere identificativi con dei numeri i caschi o comunque le divise dei poliziotti. Se mi permetti, poi vorrei sottolineare anche un aspetto in questo momento può apparire secondario, ma è un tema molto importante per quello che riguarda un paese democratico, i diritti e le istituzioni. Cioè da più parti nell'ambiente dei giuristi viene sottolineato come anche questa volta, nel caso del pestaggio del nostro collega, un'indagine i cui responsabili sono innegabilmente dei poliziotti, bene, questa indagine venga affidata alla stessa polizia. Naturalmente c'è la massima fiducia nella squadra mobile genovese, la questura genovese è una questura assolutamente attendibile e seria, resta il fatto che in linea di principio una istituzione che indaga su se stesso c'è sempre un qualche cosa che fa pensare a un cortocircuito. Certo, ti vorrei chiedere una cosa a questo punto legata anche proprio sui fatti di ieri in qualche modo, collegandoci anche alle dichiarazioni che ci sono state anche da parte della questura, si è detto il clima del G8 è totalmente passato e fin dal mattino si aprirà un'indagine, lo ha detto il procuratore aggiunto Francesco Pinto. In realtà ti volevo chiedere, siccome sia tu facevi riferimento ieri quando ci siamo sentiti in diretta a livello di militarizzazione a quella che c'era stata nel caso del G8, sia anche altri manifestanti abbiamo sentito oggi richiamavano un po' quel clima, se anche tu hai avuto questa impressione. Beh, assolutamente sì, intanto evidentemente non è solo una suggestione il fatto che questo ennesimo drammatico episodio di piazza avvenga a Genova, che naturalmente è segnata sia dalle vicende del luglio del 2001 del G8, ma ricorderei anche gli scontri di piazza del 30 giugno 60, quando i lavoratori genovesi, i portuali in prima linea, ebbero durissimi scontri con la polizia per impedire la manifestazione dell'MSI, allora vero e proprio partito legato molto direttamente al fascismo. Quindi sì, c'è stata poi ieri anche nei simboli, insomma, queste grate che sono state usate per chiudere gli accessi alla piazza Marsala, dove era in corso questo surreale comizio di Casa Pound al quale hanno partecipato 30 persone, e poi le scene che si sono viste di alcune, naturalmente in misura molto più ridotta numericamente e di minore impatto, ma insomma le caccia all'uomo ad alcuni manifestanti, anche violenti magari, che però scappavano in quel momento, insomma hanno ricordato alcune situazioni tragiche che si erano verificate nel luglio del 2001. Va sicuramente detto come la piazza di ieri dimostri una radicalizzazione, se si può dire così, di posizioni, con una piazza sempre più sensibile, specie a Genova, città che, anche se amministrata al centrodestra, ha comunque delle forti radici a sinistra, abbia vissuto come un vero e proprio affronto la concessione della piazza a un gruppo neofascista, Casa Pound, quindi una massiccia partecipazione alla manifestazione di piazza e poi, va detto, anche ai tafferugli. Dall'altro lato, una reazione della polizia che in alcuni episodi è stata sicuramente eccessiva e violenta, e un veri e propri abusi, anche se probabilmente il ministro Salvini non li chiamerà mai così. Su questo tema, e tornando anche ai due fascicoli che sono stati aperti, in particolare quello appunto sul pestaggio di Stefano Rigone, voi teorizzavate anche, sto leggendo un articolo di Repubblica in cui si annuncia appunto l'apertura dei due fascicoli, che comunque questo possa essere utilizzato anche, diciamo, come quadro per i magistrati per indagare anche su casi analoghi, quindi su altri pestaggi che ci sono stati nella piazza di ieri. Beh, naturalmente l'indagine prende il via dal pestaggio di Stefano Rigone, che non tanto perché è un giornalista, ma perché è stato il pestaggio forse meglio filmato e documentato, ma ci sono altri episodi che compaiono in alcuni video e lasciano pensare anche in quei casi a a un uso eccessivo della forza e della violenza, quindi ad altri pestaggi ingiustificati che verranno sicuramente perseguiti. Poi in quei casi bisogna anche che, diciamo, la vittima, che non si può identificare soltanto attraverso un video, presenti in un certo caso, denuncia o sporga una querela. Ecco, questo quindi è anche da vedere. Per procedere ci vuole naturalmente il nome della vittima, ancora prima di sapere che comunque la violenza c'è comunque stata, perché è documentata in un video. Sì, certo, diciamo che proprio per, forse anche per quel cortocircuito che tu citavi prima, ovvero quello che sia la stessa arma a indagare su se stessa, può essere difficile per qualcuno come singolo sporgere denuncia. Questo insomma è la solita, è la vecchia questione del controllore e del controllato, cioè in uno stato di diritto chi fa le indagini su un'altra persona non può essere lo stesso soggetto, il suo stesso collega che gli appartiene, anche se sono naturalmente reparti diversi, però c'è un qualche cosa che stride di sottofondo, e al di là della fiducia nella polizia non si può non rilevare questa contraddizione evidente.